La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. L'ora di cinema di Radio 24, un saluto da Franco D'Assisti, eccoci qua come sempre, come ogni weekend, come ogni sabato sera, come ogni domenica pomeriggio a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui alla Rosa Purpurea. Una settimana con un numero importante di uscite, con un film che a mio modo di vedere resterà negli annali non solo di questa stagione ma anche di quelle circostanti, e parlo di Drive, e poi qualche importante evento anche di un video di cui dobbiamo parlarvi, però come sempre riepiloghiamo tutto nei nostri titoli di testa. Storie di amicizia e vampirismo nei cinema italiani. Blood Story, il remake dello svedese Lasciatemi entrare. Un bambino vittima di bullismo e una giovane vampira uniscono le loro solitudini, donandosi a vicenda amore e protezione. Jung, Freud e Sabrina, triangolo intellettuale amoroso nella Mitteleuropa di inizio Novecento. In A Dangerous Method, David Cronenberg esplora il rapporto fra il padre della psicanalisi e il suo principale discepolo, in mezzo a una paziente che poco a poco diventa elemento fondamentale per la ricerca di se stessi. Lui non spara e non ruba, lui guida e ti porta fuori dai guai in un attimo, finché l'amore non ci si mette di mezzo. Nelle sale italiane, Drive, il film che è valso al regista danese Nicolas Winding Refn il premio per la regia al Festival di Cannes. Protagonista Ryan Gosling, l'attore più magnetico del momento. Il lato oscuro del Blu-ray. Nelle videoteche l'intera saga di Star Wars in alta definizione. 9 dischi con i 6 film dell'epopea di George Lucas e 3 di contenuti speciali, ed è già record di vendite. Ma i fans più accaniti sono soddisfatti? Le risposte nello speciale della Rosa Purpurea. Ebbene, allora, questi contenuti della nostra trasmissione, i contenuti principali, come sempre, innanzitutto le novità, innanzitutto quello che potete trovare in sala, al cinema, da questo fine settimana, per un consiglio di visione, o a volte uno sconsiglio, dipende un po'. Cominciamo subito con un film il cui progenitore, devo dire abbastanza giovane, di 3-4 anni fa, era stato uno dei più bei film e dei più belli esordi che si erano visti durante quell'anno. E come sempre accade, come spesso accade, il cinema americano, anziché importare l'originale, anche dopo un paio d'anni, ormai non hanno più scrupoli, fanno il remake e lo ambientano in America. Tra l'altro in questo caso anche con qualche ragione in meno, perché non c'era la necessità di piazzarci chissà quali star, anche se qualcuna c'è. Sto parlando di Blood Story, che è il remake del film svedese di qualche anno fa, appunto, che si chiamava Lasciami entrare, firmato da Thomas Alfredson, che tra l'altro abbiamo visto recentemente a Venezia con una bellissima spy story tratta dalla talpa di Le Carré. Insomma, come vedete, corsi e ricorsi. Alfredson ha firmato Lasciami entrare, ha fatto successo nel mondo ed è andato a girare con capitali americani. Gli americani hanno preso il suo film e lo hanno rifatto, appunto, con il titolo di Blood Story. Tale e quale, però, l'hanno spostato nel New Mexico e la storia è sempre quella di un'amicizia fra due solitudini, quella di un bambino dodicenne vessato dai bulli della scuola, eccetera, e di una bambina vampira, ma c'è un taglio e c'è un amore, almeno c'era nel primo film, che era lontano dalle suggestioni spettacolari dei Twilight, eccetera, eccetera. Tutta un'altra cosa. Allora, sentiamo subito una clip di questo film e poi coinvolgiamo il nostro Boris Sollazzo. C'è stato un incidente ieri notte. Un ragazzo diplomato qui da poco è stato ucciso. Avete appena traslocato, vero? Come lo sai? Vivo accanto a voi. Abbiamo trovato un altro corpo completamente dissanguato. Per piacere, non vedere più quel ragazzino. Ti sei fatto male? Dei compagni a scuola. Ti devi far rispettare. Ti aiuterò io. Facciamo un patto. Tieni. Abby. Sei un vampiro. Ho bisogno di sangue per vivere. Ehi, chi c'è? Stai bene? Queste le suggestioni sonore di Blood Story. Nell'originale Lasciami Entrare di Thomas Alfredson, la cosa, la cifra proprio della regia era il sottrarre, era questa l'algida Svezia, una Stoccolma invernale e periferica, la neve, il colore del sangue sulla neve, le musiche sempre molto, molto sotto traccia. Boris, innanzitutto ciao e grazie per essere qui con noi. In questo Blood Story quella poesia rimane? Ma in qualche modo sì, anche se Matt Reeves è molto più esecutore di quanto fosse Thomas Alfredson. Qui ci ritroviamo nella solita strana vicenda dei remake americani. Gli americani non vedono i film europei, quindi Let Me In, che poi da noi è diventato Blood Story, De Laurentiis ci regala addirittura l'adattamento di un titolo inglese in inglese, che è insomma un virtuosismo degno di pochi. È uguale, praticamente uguale, c'è qualche piccola edulcorazione dettata dal moralismo americano che non accetta determinati sottintesi e sottotesti, però il film è anche filologicamente molto molto simile, con due ottimi attori a sostituire gli originali, cioè Chloe Moretz, che è un'ottima bambina vampiro, e Richard Jenkins, che è un ottimo tutore protettore. Ecco, devo dire, pensando a un film che esce questa settimana come Drive, è curioso come Drive e Blood Story siano accomunati da una grande violenza, da una grande produzione di sangue, accomunato però una grande tenerezza, una grande esigenza di protezione. Cioè, alla base di questa storia non c'è tanto la violenza, non c'è tanto il vampirismo, quanto l'amore di un uomo per quella che considera una figlia, un amore per cui lui è disposto a qualsiasi cosa fino al sacrificio estremo. Devo dire, se non avete visto Lasciami Entrare, Blood Story va visto. Se l'avete già visto, avete già visto anche Blood Story. Bene, mi sembra un'ottima chiosa, Boris. Allora, La Rosa Purpurea. Eccoci qua ancora insieme. Allora, Rosa Purpurea, dicevamo, parliamo di cinema italiano e parliamo del nuovo film di Vincenzo Salemme, nel senso che lui è il mattatore di questo film, anche se la regia è firmata da Paolo Costella. Insieme a Vincenzo Salemme c'è Asia Argento, che in chiave di commedia insomma può essere anche un interessante attù della locandina. C'è Nicole Grimaudo e poi ci sono una serie di personaggi e di attori come Maurizio Casagrande, insomma, che sono degli abituè di un certo tipo di commedia. Ho detto prima in chiusura di primo blocco una commedia che faticosamente pensavamo di star superando, cioè la stagione scorsa ci aveva detto che la commedia italiana, pur attingendo ovviamente senza rivoluzioni particolari a quelli che sono i ruoli tipici, insomma aveva almeno stilisticamente aveva cercato vie un po' diverse, anche appunto rifacendosi a un mainstream che comunque era quello che portava poi Zalone a fare 40 milioni di incasso, oppure Bisio a farne 30. Ecco, non è che stiamo parlando di rivoluzioni cinematografiche bergmaniane, ma insomma del cercare di rispondere più a un pubblico che quello di oggi, che mi sembra che è esattamente quello che Baciato dalla Fortuna non fa. Allora, noi andiamo ad ascoltare la clip e poi sentiamo il commento di Boris Sollazzo. Come hai fatto a riuscire a catturare una così? È stato un colpo di fulmine. Colpo di fulmine? Sì. A lei? Aspetta! C'è la voce che te la intendi con la cuoca? Dove è andato il mio maialino? Via qua, bello da papà! È arrivata l'ingiunzione di pagamento, cioè ci portiamo i mobili tuoi. Così mi dici? È in arretrato sul mutuo di 90.000 euro. Siamo alla voce, per favore. Anche sottovoce, sempre 90.000 euro sono. Maglia, fravaglia, fattura che non guaglia, corna, bicorna, fattura che non dorma. 10. Lei si è fissato con quegli stupidi numeri. 10, 20, 30, 40. 50 e 60. Ma la vita non si cambia così. Se vinca il Superenalotto ti faccio vedere come migliora la vita mia. Quanto abbiamo 120 milioni. Sto pensando alla ricevuta. Ma dove l'hai messa? No, perché noi qui rischiamo di perdere tutti i nostri soldi, A ricchezza, a rapa tutte e forza. E allora, ascoltando il trailer, ho segnato alcune delle tematiche che, diciamo, sono vecchie come il cinema. La schedina non giocata. Chi di noi ha detto, ah mamma, quella volta che ho giocato la schedina e poi invece non l'ho giocata? E questo succede. Il lotto, il gioco, il vincere, la vincita come strumento di emancipazione. Facile, diciamo, ma insomma sulla quale gli italiani, come dire, sembrano essere tutti molto d'accordo. Il napoletano al nord, e anche qui ci siamo, il film è ambientato a Parma, il desiderio della grandeur, no? Di una vita in grande stile, insomma tematiche che c'erano, ci sono e ci saranno. Stilisticamente il film però le affronta in maniera, come dire, non innovativa, tutt'altro. Anzi, mi sembra di poter dire, Boris, che forse ogni tanto il cinema, anche quello italiano, perché quello americano l'ha fatto, dovrebbe imparare qualcosa di più dalla migliore televisione di fiction di oggi, perché oggi alcuni linguaggi vengono innovati più dalla televisione che da film come questo. Ma assolutamente sì, questo è un film assolutamente vecchio nella forma e nel contenuto. Insomma, in un cinema che tenta di essere innovativo, in un cinema che comunque ha offerto spesso anche, persino quello italiano, anche delle innovazioni, la commedia sembra rimanere ancorata a degli schemi che sono più vecchi del pubblico più affezionato di questo genere. E poi è un peccato anche l'utilizzo che si fa del personaggio del napoletano al nord, appunto. Per esempio il film con Bisio e Siani, cioè in questo film Benvenuti al Sud, c'era uno sforzo di ricreare, anzi proprio una situazione opposta, cioè quella di raccontare il meridione per quello che è, cioè di persone assolutamente come dire, no? Cioè, non c'era lo stereotipo, ecco, questo voglio dire, non c'era lo stereotipo, anzi Siani spingeva molto oltre la dissacrazione dello stereotipo, che invece qui si ripresenta in tutta la sua interezza. Ma sì, in maniera molto imbarazzante, devo dire. È un film, ripeto, che ha anche il suo costo, perché il cast è di nome: Gassman, Asia Argento, Salemme, Bandiera, che ormai sembra essere una sorta di portafortuna che c'è in quasi tutte le commedie di questo tipo, però tranne quei due o tre sketch che fanno ridere quasi più per esasperazione, perché ormai è talmente ripetuto questo modello che per forza di cose la risata è quasi un riflesso incondizionato, credo che l'unico motivo per pagare il prezzo del biglietto di questo film sia invece Asia Argento, che ci insegna i piaceri della carne. Ora, non pensare subito male, c'è un momento benissimo in cui lei... Esatto, in cui lei fa la carne alla brace, rivolta a rallenti queste fette di bistecca, e diciamo che insomma è un po' unta anche dall'atmosfera, dal fumo, dall'olio in cui cuociono queste bistecche, proprio i piaceri della carne. Ecco, quella scena, devo dire, è un ottimo ritorno di Asia Argento al cinema italiano. E qui riconosciamo il vero Boris Sollazzo, siamo contenti così. Quando sei così vuol dire che stai bene. Boris, grazie per averci, come sempre, aiutato un po' a districarci in alcuni film della programmazione di questa settimana. Appuntamento alla prossima. È sempre un piacere, alla prossima. E allora, siamo arrivati al momento di giocare, è arrivato il momento di aprire la prima finestra sul nostro Blu-ray Game. Anche questa settimana giochiamo con l'alta definizione e lo facciamo con uno straordinario capolavoro del cinema italiano. Sto già cominciando a essere troppo buono, sentiamo. Ho litigato con mia sorella. Ancora? Vuoi andare via? Dice che non verrà manco al matrimonio. Beh, so cose che si dicono. La Rosa Purpurea @radio24.it, titolo del film e vostro indirizzo di corrispondenza per poter provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi ci saranno altre due tracce da ascoltare. È la persona che cercavi per il tuo trattamento sperimentale. Mi parli della prima volta in cui è stata picchiata da suo padre? Mi piaceva. E come sta la sua piccola paziente russa? C'è stato un miglioramento straordinario. La ragazza è vergine? Sicuramente. Se mai vorrà prendere l'iniziativa, io abito in quel palazzo. Perché tanti affannosi sforzi per soffocare i nostri più elementari istinti naturali? Mai reprimere nulla. Voglio che tu mi punisca. Ecco, avete capito un po' anche qui il clima che tira, l'aria che tira, A Dangerous Method di David Cronenberg, il film che il grande regista canadese ha portato a Venezia e che racconta una storia che tra l'altro anche qui aveva già fatto scaturire un film, tra l'altro italiano, un film di Roberto Faenza di qualche anno fa. Era la storia del triangolo non amoroso in questo senso, perché l'amore e la passione c'è fra Jung e Sabina Spielrein, ma del triangolo intellettuale che veniva completato dalla presenza di Sigmund Freud. Siamo nell'Europa centrale, fra Vienna e Zurigo, all'inizio del Novecento, nel 1904. Il giovane psichiatra Carl Gustav Jung, seguace di Freud, ospita per cure nella casa di cure psichiatrica nella quale lavora questa ragazza, che è appunto interpretata da Keira Knightley, che è Sabina Spielrein, una ragazza che ha un passato di violenze domestiche, soprattutto da parte del padre, ed è non sta molto bene, insomma, lo vedete, lo avete sentito anche dalle primissime immagini. Però questa ragazza si dimostra subito guaribile con i criteri appunto della psicanalisi, ed ecco che Jung si appassiona al suo caso. Jung, che è sposato con figli, si appassiona al suo caso forse anche troppo e anche oltre quello che la medicina dovrebbe fare. Vienna. Foresta. Scatola. Letto. Denaro. Banca. Figlio. Presto. Questo è il test che Jung fa a sua moglie, e assistito proprio da Sabina. Avete capito che, insomma, la moglie avrebbe voluto una famiglia e una, come dire, una vita diversa, insomma, da quella da come poi sono andate le cose, perché invece questa unione con Sabina Spielrein, che diventa l'assistente, anche lei ha fatto studi di questo tipo, diventa l'assistente di Jung, e insomma questo rapporto a un certo punto, diciamo così, precipita, anche perché c'è un personaggio, è uno straordinario ruolo di Vincent Cassel nel film, che è quello di Otto Gross, che è un paziente incline alla depravazione, diciamo così, che però è la benzina che spinge sulla decisione di Jung di lasciarsi andare, di superare le convenzioni sociali e di vivere le sue pulsioni e le sue passioni esattamente come arrivano nel suo corpo. Ed ecco il Dangerous Method del titolo, il metodo per pericoloso, perché nasce l'unione con la Spielrein, il matrimonio va un po' all'aria e questo caso diventa un caso che anima il dibattito nel mondo della psicanalisi. Gira la voce insistente a Vienna che lei abbia preso una delle sue pazienti come amante. È assolutamente falso. Ma è chiaro che è falso. È ciò che vado ripetendo a tutti. Non sarei mai così stupido da coinvolgermi emotivamente con una paziente. I temi sono quelli tipici di Cronenberg: il corpo, la sessualità, le ferite, le ossessioni. Quello che non arriva è la regia, in questo caso troppo convenzionale, statica, legata a un cliché da film in costume, anche con una fotografia troppo pulita, con pochi graffi. Ecco, questo è un fatto importante, perché Cronenberg ci ha abituato sia a tematiche di un certo tipo, ma anche a regie di un certo tipo. Pensate a film, mi viene in mente Spider, per dirne uno, oppure Existence, ma anche lo stesso History of Violence, insomma, sempre la mano di Cronenberg, no? E qui invece mi sembra quasi un film fatto a servizio della TV, cioè dove si vuole raccontare la storia, un film narrativo ma poco basato sulle immagini. Il cast è un cast importante: Keira Knightley, abbiamo detto, Michael Fassbender, che è ormai uno degli attori dell'anno con Ryan Gosling, Viggo Mortensen nei panni di Freud, tutti però con qualche piccolo difetto, a mio modo di vedere, soprattutto di adattamento al personaggio più che di recitazione. Insomma, un film non particolarmente riuscito. Quando penseremo a Cronenberg non ci verrà in mente Dangerous Method, poi guardandolo retrospettivamente come suo film simbolico. Però Cronenberg ha fatto un'operazione interessante, ha detto una cosa interessante in conferenza stampa a Venezia, cioè il fatto che lavorare in costume oggi con gli attori significa non solo mettergli addosso un vestito, ma significa anche provare a cambiargli la mente. Sentiamo. You research a location, an era. La ricerca di una location, ricreare un'epoca e cercare il tipo di costumi che si possono indossare è eccitante. È una sorta di sfida, perché non puoi mettere addosso degli abiti a qualcuno, scegliere i luoghi come se fossero cose marginali. C'è qualcosa di magico che devi cercare di catturare. Ci sono alcuni attori che per qualche ragione non riescono a trasportare loro stessi in un'epoca differente. Sembrano sempre rimanere contemporanei alla nostra epoca e non funzionano inseriti nel passato. Penso che tutto questo sia abbastanza normale, nel senso che ci sono altri attori che invece sono in grado di farlo, cioè di trasportarsi nella mentalità del passato. È tutto molto differente. Le persone sono davvero differenti nel passato. Il nostro cervello è cambiato nei secoli, forse a causa delle tecnologie. La rosa purpurea. Questi suoni sintetizzati tipicamente anni 80 dalla colonna sonora di Drive ci introducono al primo capolavoro dell'anno e qui non si discute perché siamo di fronte a un film davvero straordinario, è sicuramente il consiglio della settimana, lo sarà anche probabilmente per la stagione autunnale. E allora, Drive, il film di Nicholas Winding Refn, valso al suo regista il premio per la miglior regia al Festival di Cannes, qualcuno dice meritava molto di più, meritava la Palma d'Oro. Drive, film di genere che mette insieme i generi, che si riferisce al cinema degli anni 80 e 70, al cinema della criminalità, degli inseguimenti, del poliziesco, ma anche però con una sensibilità che invece è quella della generazione di oggi. Il protagonista Ryan Gosling, come abbiamo detto prima, insieme a Michael Fassbender, sicuramente l'attore dell'anno, del periodo, del momento, nei panni di questo giovane che tra l'altro nel film non ha un nome, appunto Drive, il driver, che ha più di un lavoro, è un di giorno meccanico, carrozziere, stuntman per le riprese automobilistiche a Hollywood, perché lui è un bravissimo pilota, facoltà che usa di notte per guadagnare soldi, facendo l'autista per le rapine, l'autista d'appoggio per le rapine. Lui guida solo le macchine, lui guida, come dice il titolo del film, non imbraccia pistole, non spara, non partecipa attivamente. Lui ti porta da un punto all'altro nel tempo utile, spesso sono tempi record, facendoti scappare dal luogo dei furti grazie a una guida perfetta ma anche intelligente. E andiamo, dove cazzo sei? Forza! Forza! Entra, forza, entra! Vai, vai, vai! Aggiungere unità, piccolo sospetto. Impala nuovo modello argento metallizzato. Cosa fa il bravo driver di rapine in questo caso? Questa è la scena più bella del film, è un anti-inseguimento praticamente, è un anti-fuga perché lui scappa, ma quando capisce di essere davvero braccato, di avere la polizia con gli elicotteri che lo hanno individuato, frena, spegne le luci e parcheggia, si ferma. Ecco, questo è anche un po' identificativo della mano di regia di Nicholas Winding Refn. Insomma, questo è il driver, il suo mentore, un vecchio meccanico col pallino delle corse che vorrebbe introdurlo nel mondo dell'automobilismo sportivo, dato il suo talento, ovviamente totalmente ignaro della sua attività notturna. Ma per fare questo, per farlo correre su una macchina da corsa, ha bisogno di tanti soldi. Li chiede ovviamente a un vecchio amico sbagliato, la persona sbagliata, un mafioso interpretato da uno straordinario Albert Brooke, che ovviamente chiede il suo tornaconto. Signor Rose, non glielo proporrei se non fossi assolutamente certo del risultato. Come fai a esserne così sicuro, Sherman? Che cos'hai che le altre squadre professionistiche non possiedono? Ho un grande pilota. Un giorno all'officina di Shannon, dove appunto lavora, Drive incontra Irene, bella, dolce, interpretata da Carey Mulligan, alle prese con un figlio piccolo che cresce da sola perché il marito, Standard, questo è il nome, è in carcere. Fra i due scocca immediata la scintilla. A quanto pare il guasto è più grave di quanto pensassi. Dovremo tenere qui l'auto per qualche giorno. Così ho pensato che potresti accompagnare tu a casa Irene e suo figlio. Sei d'accordo? Sì, certo. Bene. Alla base c'è un romanzo, il romanzo di James Sellis, appunto intitolato Drive, presentato in concorso al Festival di Cannes, il film, come dicevamo, una classica storia di amore maledetto e impossibile che appunto al cinema si è vista e rivista più volte, non è certo lì l'elemento di novità. Ryan Gosling è giusto nelle mani di Refn perché ha una sua recitazione atona, ipnotica, di grande presenza scenica più che di virtuosismo ad effetto. La sua maschera laconica nasconde la frustrazione di un personaggio che è braccato da dentro, dall'anima, mai sereno, mai fino in fondo convinto di poter trovare la felicità, eppure misurato, eppure desideroso di questa felicità. Ma dicevamo, il lievito del film è la regia di Nicholas Winding Refn, danese, una delle personalità emergenti del cinema internazionale, che mette insieme la più personale, originale e insieme piena di contatti col cinema del passato, appunto regia che si è capitato di vedere in tempi recenti. Un regista che asciuga laddove altri inondano, toglie dove gli altri aggiungono, fa parlare i silenzi invece delle parole. Un film che è già consegnato alla storia del cinema contemporaneo. E allora, questa era Drive, il nostro assoluto e convinto consiglio di visione per questo fine settimana. Giochiamo ancora con il nostro Blu-ray Game di oggi. A quest'ora arrivate, reverenda, quel poverino vi ha tanto chiamato, a quest'ora sarà spirato. Andate. Un momento, com'è questa storia? Hanno fatto scendere tutti? No, quello è un vecchietto paralitico. Andate, reverenda, sbrigatevi. La rosa purpura è @radio24.it. Per il più bravo del sabato e la domenica c'è il Blu-ray di questo film. Dovete indovinarlo, a fra poco. Hai lasciato che questo signore oscuro ti corrompesse l'animo finché sei diventato ciò che avevi giurato di distruggere. Niente prediche, Obi-Wan. Io vedo oltre le bugie dei Jedi. Non temo il lato oscuro come voi. Se non sei con me, sei mio nemico. Beh, avete capito già tutto, immagino. Con la marcia imperiale della colonna sonora di Guerre Stellari noi abbiamo introdotto un evento, a volte anche l'home video riesce a fare evento esattamente come quando un film esce per la prima volta al cinema. Sì, perché come vedete anche come scelta lo abbiamo collocato fuori dalle nostre classiche recensioni di DVD, perché l'uscita anche in Italia del cofanetto che comprende tutta la saga di Guerre Stellari in Blu-ray, quindi in alta definizione, con 9 dischi, una cosa spropositata, è un evento. È un evento che mette insieme gli appassionati di Guerre Stellari, tutti quelli che hanno una certa età ormai, ai noi insomma, che appartengono a una generazione che con Guerre Stellari è cresciuta, ed è un evento perché permette a questa saga di essere vista come a casa al meglio non si può. Di meglio c'è solo il cinema. Allora, questo è stato già fatto, forse lo risarà, chissà, nei prossimi anni, però per il momento il modo migliore di vedersi queste straordinarie avventure che hanno cambiato la storia del cinema, non solo di fantascienza, è questo. E noi siamo in collegamento con chi questo evento lo ha portato in Italia, ovvero Gianni Donà, presidente di Fox Home Video Home Entertainment Italia, che è in collegamento con noi. Buongiorno, dottor Donà. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, dicevamo, un evento perché immagino che anche produttivamente, anche a livello distributivo, insomma, andare in videoteca con un cofanetto che sfiora i 100 euro di costo e di valore, ovviamente vuole tutta una preparazione che la naturale e la normale, diciamo così, uscita a un video non richiede, soprattutto se si chiama Star Wars. Certo, per noi è un grande avvenimento. Diciamo che dai primi di settembre siamo usciti finalmente con il Blu-ray di Guerre Stellari, di tutta la saga di Star Wars. È disponibile tutta la saga in un cofanetto Monster da 9 dischi, quindi tutti i 6 film più 3 di Blu-ray con contenuti speciali totalmente inediti che nessuno aveva mai visto prima, e poi naturalmente per una cifra molto più abbordabile, cioè sotto i 50 euro, sono disponibili le 2 trilogie, quelle del prequel e quelle del sequel, fondamentalmente, quindi l'episodio dall'1 al 3 e l'episodio dal 4 al 6. Direi che questo segna finalmente l'arrivo di Guerre Stellari in Blu-ray, l'affermazione del Blu-ray, cioè il Blu-ray oggi non è più una tecnologia di nicchia, ma è, diciamo così, il passo successivo al DVD, e quindi siamo certi che oltre 1 milione di italiani che hanno il Blu-ray in casa, a questi se ne aggiungeranno tanti altri grazie all'arrivo di Guerre Stellari. E adesso noi vedremo anche un po' quale sarà stato il gradimento da parte dei più esigenti dei fans. Per il momento ringraziamo il dottor Donà della Fox Home Entertainment Italia per averci raccontato un po', insomma, quello che è il contorno editoriale di questo grande avvenimento del non video. Grazie. Grazie a voi. E allora, il dottor Donacci ha raccontato un po' appunto questo contorno editoriale di questo avvenimento, ma adesso dobbiamo capire cosa ne pensa la gente. In questo caso la gente è la gente di Star Wars, è il popolo di Star Wars e dei fans di tutto il mondo, e noi siamo in collegamento con chi li rappresenta anche ufficialmente in maniera riconosciuta in Italia, ovvero Alberto Fontanini, che saluto. Ciao Alberto. Ciao a tutti, ciao. Allora, intanto io ho quasi timore a presentarti, perché so che tu hai tutto un nome importante che riguarda la vostra organizzazione. Spiegacela un po' tu, in breve. Ma in breve, io sono responsabile delle pubbliche relazioni della 501esima Legione, Italica Garrison, e della Rebel Legion Italian Base. Questi sono due gruppi di costuming e gli unici due gruppi al mondo riconosciuti ufficialmente dal Lucasfilm con testimonial. Noi ti chiamiamo perché vogliamo capire se siete davvero interamente soddisfatti di questa operazione. E soddisfatti dipende. Il mondo dei fans è un mondo che non è mai univoco. Diciamo che ognuno ha le proprie idee. Ci sono i puristi che addirittura riconoscono solo la prima trilogia, quella classica, la più vecchia. E quindi già gli ultimi tre film, che poi sono episodi 1, 2, 3, sono visti male. Ogni qualsiasi rimaneggiamento, e Lucas ci ha abituato nelle varie occasioni a nuove versioni, ogni volta ci mette un po' lo zampino. Quindi i puristi sono sempre un po' insoddisfatti ogni volta che c'è un'uscita nuova. A livello tecnico niente da dire, Blu-ray, io l'ho già visto tutto, sia le 40 ore dei documentari che tutti i 6 film, quindi proprio la conoscenza, una panoramica. A livello tecnico, sì, niente da dire, vedi dei dettagli grafici che non si potevano notare prima. Differenze ne ho fatte tante, alcune inutili, tipo adesso gli Evox battono le palpebre, però è una cosa che può far piacere, ma se uno non lo sa quasi non lo nota. O un R2 che si nasconde dietro qualche roccia in più quando è nel deserto, cose aggiunte tipo astronavi o oggetti inseriti in tutto in post-produzione, però non fanno nessuna differenza. Il problema spesso, le critiche principali, sono quando Lucas cambia radicalmente anche la storia, tipo Han Solo in cantina, che ha sempre ucciso, sempre nel senso che nell'edizione originale ha sparato per primo, anzi era l'unico a sparare, uccidendo chi lo stava cercando. Adesso nel Blu-ray lui risponde al fuoco, quindi è più veloce, nel senso che esce vittorioso da un duello, però risponde al fuoco. La rosa purpurea. Eccoci qui in fondo alla nostra corsa di cinema di questa settimana, con i film da vedere a casa fra televisione e un video, e come sempre a raccontarci il meglio della programmazione e dei palinsesti delle TV, diciamo in chiaro ormai, perché col digitale terrestre sono tutte in chiaro, almeno quelle gratuite, perché noi vogliamo farvi spendere soldi in questo senso. Abbiamo il Giulio San Giorgi della redazione di Film TV che è in collegamento con noi. Ciao Giulio. Ciao Franco e bentornati con le segnalazioni di Film TV. Allora, cominciamo con un grandissimo nome come quello di Nicholas Ray, perché il regista di Gioventù Bruciata, di Johnny Guitar, è stato celebrato proprio alla Mostra del Cinema di Venezia, con un omaggio straordinario, con una serie di operazioni proprio dovute al centenario della nascita. Nicholas Ray era appunto dell'agosto del 1911. Fra queste, la presentazione del suo film postumo Non possiamo tornare a casa, We Can't Go Home Again, che è poi il film che vi proponiamo, perché passa in televisione la prossima settimana. Sì, esattamente, fuori orario è sempre prezioso in questi recuperi, e a pochi giorni dall'anteprima veneziana di questa versione restaurata manda in onda L'ultima fatica di Nicholas Ray, un'opera realizzata dal maestro con gli studenti della State University of New York. È una fatica nel senso letterale, nel senso che era un'ossessione incompiuta di Ray e ricostruita oggi grazie all'associazione a cui è capo la moglie Susan Ray. È un film in bilico tra realtà e finzione, dove non c'è confine tra scena e retroscena, e testimonia appunto il percorso di creatività di questa scuola, una creatività proprio fluviale, sempre in itinere. I Ray e i suoi alunni girano, provano, recitano e vivono, il flusso è proprio indistinto, non c'è differenza tra la realtà e la finzione, ed è un film in bilico tra il cinema classico e i film più avanguardistici, il cinema addirittura amatoriale, familiare. veramente un'opera totale, capace di innovare il linguaggio e essere al contempo un saggio sull'arte di fare cinema. Ricordiamo ancora l'appuntamento lunedì 3 ottobre, Rai 3, fuori orario alla 1:15 di notte, puntate i videoregistratori o i DVD recorder, e se siete svegli guardatelo, perché è un film assolutamente da vedere. Mentre ne parlavi, Giulio, mi venivano in mente i film di Al Pacino, non so perché, ho avuto questo cortocircuito, la Salomè presentata proprio a Venezia, oppure Looking for Richard, in questa fusione di vita fuori e dentro dalla recitazione, chissà. In Italia invece, anche qui con un taglio sicuramente più documentaristico per un grande maestro come Marco Bellocchio, perché ci sono due province, Piacenza e Parma, che si contendono in un derby ormai più che secolare la paternità del più grande maestro della musica di tutti i tempi in Italia, cioè Giuseppe Verdi. Era piacentino o era parmigiano? Proprio di questo racconta Addio del passato. Esattamente, mercoledì 5 su Rai Movie alle 6:30 del mattino, e quindi anche qui c'è da puntare videoregistratore o DVD recorder. C'è Addio del passato, in occasione del centenario della morte di Giuseppe Verdi, quindi nel 2002, Bellocchio gira per la città di Piacenza alla ricerca delle origini musicali del compositore. Ne esce un mediometraggio documentario che è un saggio complesso sia su Verdi sia sulla piacentinità, un film appunto anche questo sospeso tra la realtà e la finzione, con storie con la S maiuscola e storie personali, un film sospeso tra la poesia, l'ironia, l'antropologia, una delizia veramente firmata Bellocchio, per cui puntate al registratore. O svegliatevi presto, perché appunto è alle 6:30 del mattino di mercoledì 5 ottobre. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Grazie a te Franco e un saluto ai radioascoltatori. E dopo le segnalazioni di film TV è arrivato il momento di giocare con la terza e ultima traccia del film misterioso di oggi. Le vite umane dipendono dal vostro silenzio. Credete di poter resistere alle loro torture, ma voi non sapete. Loro fanno diventare vigliacchi anche gli eroi. Non siamo degli eroi. Beh, qui forse qualcosa di più si capiva. La Rosa Purpurea, chiocciola, radio24.it, che grande capolavoro del cinema italiano è questo, per provare a vincerne il Blu-ray. Come sempre inserite anche il vostro indirizzo. Andiamo a vedere qual è stato invece, a sentire qual è stato invece il gioco con cui ci siamo cimentati la scorsa settimana. In questo paese devi fare la grana prima. E quando hai fatto la grana, c'hai anche il potere. E quando hai il potere, allora c'hai pure le donne. È per questo che bisogna muoversi. Si trattava di Scarface, questo era il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana, il capolavoro di Brian De Palma del 1983. Lo hanno indovinato per primi, hanno quindi vinto il Blu-ray, l'edizione in Blu-ray di questo film, Andrea Garbin di Visnadello, provincia di Treviso, e Daniele Burnazzi di Rimini. Saranno loro a ricevere questo film, che arriva appunto in un video, anzi in Blu-ray, in alta definizione, e del quale parliamo col nostro Claudio Pofi, che è già in collegamento con noi. Ciao Claudio! Ciao Franco, sì, sicuramente un'opera straordinaria dal punto di vista della presentazione dei contenuti. Ho qualche appunto da fare per quanto riguarda la qualità delle immagini. Il risultato è sicuramente superiore al DVD per questa nuova edizione Blu-ray, anche se la sensazione è che siano stati utilizzati dei filtri di riduzione del rumore, quindi per abbassare la grana in qualche modo molte immagini risultano un po' più plasticose rispetto all'originale cinematografia. L'audio è un DTS, due canali monofonico per l'italiano, ma rispettoso assolutamente dell'originale glorioso doppiaggio dell'epoca. Sicuramente molti ricorderanno la voce mitica di Ferruccio Amendola, che diede appunto carisma al mitico Pacino. Sicuramente migliore la traccia inglese DTS 8 canali, ci sono tantissimi extra, varie analisi del fenomeno del film nel mondo, scene eliminate, una visione immagine nell'immagine con approfondimenti sulla lavorazione. Attenzione, perché questa edizione speciale contiene un secondo disco in DVD con interviste al cast della serie TV Romanzo Criminale, al regista Paolo Sorrentino e riflessioni da parte dello scrittore Roberto Saviano. Eh sì, perché sicuramente Scarface è stato anche poi il progenitore di tanto cinema di criminalità che si è poi, diciamo così, visto negli 30 anni successivi. Un altro cortocircuito della Rosa Purpura di questa settimana, abbiamo parlato prima di Vincent Cassel come protagonista del film Dangerous Method di David Cronenberg. Ebbene, Vincent Cassel è stato lanciato da un film che si chiamava La Haine, l'odio, e che i cui temi, che erano quelli delle banlieue in fiamme a Parigi, sono tornati drammaticamente d'attualità proprio durante quest'estate. Ricorderete i fatti di Londra. Questo appunto il film che vogliamo raccontarvi adesso. Sentiamo la clip. Ci siamo! Chi è che sa guidare? Chi è che sa guidare qui? Beh, c'è Vince. Come c'è Vince? Ehi, vacci piano. Oh, mica ha fatto il militare io. Non ho mai avuto la patente. È lui quello che ha la patente. Tu hai fatto il militare, no? Capirai, ero marina io, ragazzi. Io manco ho fatto l'esame. Ma io so guidare. Ma sta zitto, va. Va a farti fottere. So zitto. Mentre a Parigi infuriano gli scontri tra il popolo emarginato delle banlieue, seguiamo la vita di tre giovani provenienti dagli stessi quartieri più popolari e poveri. C'è Vince, che è un teppista che non vede l'ora di puntare una pistola contro un poliziotto, il nero Hubert, che non sopporta ciò che è intorno a lui, mentre a Said è proprio Said quello ad avere, diciamo, più il cervello dei tre, ignari purtroppo della tragedia che li attende dietro l'angolo. Cult Noir, girato in un mirabile bianco e nero, con cui a metà anni 90 Mattia Kassovitz si fece conoscere vincendo la Palma d'Oro per la regia al 48esimo Festival di Cannes. Da Minerva Raro Video, la nuova pubblicazione su DVD in edizione speciale di eccellente qualità con doppia traccia stereofonica italiana e francese. Come extra segnaliamo tre cortometraggi del regista, conversazione sul film con critici di cinema e interviste a Giorgio Cosetti e Mario Sesti. Ricordo che il film all'estero è disponibile anche in alta definizione Blu-ray. Andiamo indietro all'ultimo film di Vittorio De Sica. Sofia Loren e Richard Burton protagonisti di questo melodramma, non uno dei film più belli ma importante per la filmografia di De Sica, si intitolava Il Viaggio. Dopo la morte di mio fratello non posso più lasciare gli interessi che ho in Sicilia, la famiglia. Perdonami, Simone. Non vorrei mai che qualcuno soffrisse per causa mia. Il solito egoismo degli uomini. Non è facile neanche per me, Cesare, rompere con un uomo come te. Ho solo ricordi belli e cari. E tu? Uscito nelle sale nel 1974, anno della scomparsa di Vittorio De Sica, secondo adattamento cinematografico tratto dalla novella di Pirandello, in cui si racconta del difficile amore minato da costrizione e malattia tra la figlia unica di una famiglia borghese siciliana e il cognato Cesare. Nel cast, appunto, abbiamo ricordato i grandi Richard Burton e Sofia Loren. Il DVD è di General Video, di buona qualità, con qualche calo di contrasto, ma tecnicamente sicuramente superiore alla versione trasmessa in televisione. Audio Dolby Digital monofonico, come extra, intervista a Manuel De Sica, che curò la colonna sonora. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana con le segnalazioni in DVD. Ciao, a presto. E allora con l'angolo dell'on video del cinema da vedere in casa noi abbiamo chiuso la nostra rosa purpurea di questa settimana. L'appuntamento va alla prossima, come sempre, il sabato alle 18 e la domenica per chi ci ascolta in replica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.